fa capire la logica di funzionamento e poi magari è diventato un bravissimo radiotecnico. Sono rientrato. Prova, hai già fatto la modifica? Sì, questo è da 470. Differenza, prova a parlare qua. Guarda, va bene, 1, 2, 3, 4, 5. C'ho un'altra radio accesa, cioè la ventola che senti è in pratica il che mi sta ascoltando in cuffia con una radio. Poi la spengo, mi dite se magari non si sente più niente. Come va, meglio? No, non lo so, da parte mia poco è cambiato, però forse era meglio l'altra, e almeno a memoria sonora, non, diciamo, mi sembra questa qua ancora un pochettino più ricca di coso rispetto a prima, cioè un po' meno bassi. Chiedo conferma a Giulio, che lui forse ha memorizzato meglio di me, e io ti sto ascoltando con l'altoparlante adesso, non stavo leggendo quello che c'era, non ho memorizzato i segnali di prima, però forse questa c'ha meno bassi, confermi Giulio. Sì, diciamo che questa come modulazione è diventata più aggressiva, però c'è da fare una prova. Oh, qua prova a abbassare il livello allora del microfono, perché come modulazione è buona, però è diventata più aggressiva. Prova a abbassare un po' il livello di modulazione per vedere se ritorniamo a come era prima, perché prima c'era una modulazione più pacata, migliore, insomma, ecco, più orecchiabile. Oggi questa è un po' da combattimento. Ok, allora diciamo che allora c'era a 1,5, allora la mettiamo a 1, ecco qua, così, ecco qui, così è a 1 spiccicato. Così, per me così va bene. Hai visto la differenza come si trova, Roberto? Hai visto la differenza? Ha fatto una modifica nell'idioma della capsula, però poi è diventato per conto mio eccessivo il volume del microfono. Confermi così, Roberto? Sì, anche la parte mia, adesso stavo calcolando il valore più o meno di quanto si è abbassato. Ma quanto era quella resistenza? Questa è da 470, l'altra era da 100. Aspetta, adesso provo quanto viene di valore con quella 470, te lo dico un attimo. Riprendete, dai. 100, sono bravo. Ok, quindi Giulio, così con questa a 1 praticamente il microfono, a 1 la radio va bene? Sì, sì, così hai acquistato quella solita amplificazione che quasi sempre hai tu. Così sì, ripeto, hai visto come arriviamo al punto, al punto cruciale, Claudio? Io secondo me così va bene, come volume di microfono e anche come qualità di radio. C'è la Bracco, avanti Bracco. Adesso Giovanni entra solo a chiamare Roberto, vabbè. Allora, quindi la mettiamo così come era prima, mentre invece in questa posizione così non va bene, vero? No, non è che non va bene, va ugualmente bene, però se tu aumenti il microfono diventa troppo aggressiva la radio, ecco, cioè con una modulazione secondo me troppo forte, cioè non siamo più ai livelli di quando hai messo la resistenza da 100 ohm ad esempio. Quindi bisogna lasciarla così, dai. Va bene, a uno la radio e a uno il microfono. Volevo vedere se c'era Tino in quel Rix, vedere cosa ne pensa, se ha migliorato, se va bene. Tino? No, non c'è, evidentemente si è spostato. Comunque, la regolazione è questa, Giulio, dobbiamo lasciarla così. 470 va bene rispetto a come era prima. Sì, sì, è praticamente la tua solita modulazione, oh, qua. È la tua solita modulazione, io la sento così. sì, con quel po' di amplificazione, con quella voce robusta e soprattutto è chiara, va bene qua, non c'è problema, però non dispiaceva nemmeno l'altra, quando c'era la resistenza d'accento ohm, meno aggressiva, però non abbiamo pensato magari a fare la prova aumentando anche il volume con la resistenza d'accento ohm, perché ci ho pensato dopo io, hai modificato l'impedenza, hai modificato, giusto? Però non abbiamo pensato per vedere se era la stessa cosa, aumentando ancora il volume, quasi che lo poteva reggere, questo non lo so, però lasciala così, per me va benissimo così. No, giù io non mi arrendo, ti devo sentire a te dirmi che lascia stare così che va bene. No, allora ritorno quella da 470, metto quella da 100 e proviamo a fare la regolazione sul volume del microfono. Non mi arrendo, ritorno a togliere quella, riprendilo, un attimino Giovanni, sì, claro, riprova con quella d'accento, che adesso ho memorizzato bene esattamente le tonalità, e così ti dico se c'è qualche miglioramento, facciamo questa prova che ha detto Giulio col guadagno del microfono. Giovanni, avanti. Ma se fosse venire io vi dico la verità, poi se ci credete è buono, se no fatevi fare. Allora, siccome io diciamo difetto un po', diciamo, le orecchie, non sento tanto bene come in condizioni normali, io diciamo per quanto riguarda la resistenza di quello che sta parlando Claudio, per conto mio la migliore era quella da 100 ohm, perché diciamo non mi sfuggiva nessuna parola, no? Questa che ha messo adesso invece non lo so, non era tanto chiara come quando c'era la resistenza da 100 ohm. Poi ognuno faccia come vuole, vedete voi. E infatti anche io ho percepito così. Ok, li tirava un po' più di medi e un po' meno di bassi. Comunque ha fatto dei miglioramenti regolando il guadagno del microfono. Adesso vediamo con quella da 100 e vediamo, siccome ho memorizzato bene adesso con lo strumento i livelli di coso, di emissione delle frequenze, vediamo un pochettino se ti attenua un pochettino i medi e ti si solleva un po' i bassi. Praticamente siamo tutti d'accordo che con quella da 100 ohm andava meglio, anche Bracco sta dicendo così, però questa è stata una prova, Bracco, che abbiamo voluto fare, cioè che ha voluto fare ed è giusto, e poi abbassando il volume del microfono. Adesso vogliamo fare al contrario, rimettendo quella da 100 e aumentando il microfono per vedere se porta variazione, però in quanto a qualità e in quanto ad apprezzare la modulazione, per me era meglio quella da 100, perché quella con 470 era troppo aggressiva, fortissima, chiara, però è aggressiva, era amplificata troppo secondo me, io dico così, come ho detto poc'anzi, Robè. Diciamo Claudio perfezionista, adesso troverà in questo caso la il giusto compromesso. L'accento era un po' più naturale come cosa, l'altra era più, come dici tu, da combattimento, più incisiva, più penetrante, però io dico se riusciamo a trovare la modulazione naturale, quella che solitamente quando lo conosciamo di persona a persona è meglio, dai. Ok, Giovanni e io siamo molto vicini, è meglio magari anche sentire le persone un po' più lontane, che magari il segnale si abbassa un pochettino, perché possiamo essere condizionati dal segnale troppo forte di Claudio. Allora, ho rimesso quella da 100, aspetta che sono in cuffia, maledetta, cane morta, allora abbassiamo appena appena, ecco qua, questa è nuovamente quella da 100. Allora io guardo adesso lo strumento, ho guadagnato 4 dB nelle frequenze, aspetta per frequenza, vedete i 500, per cui stai migliorando un pochettino di basso, hai migliorato, diciamo la parte mia è meglio questa, adesso prova a farti le regolazioni e col mic gain per vedere cosa succede. Ok Giulio, questa è quella da 100, dai, allora, mamma mia questo, allora abbassiamo leggermente, ecco, ho le cuffie, allora abbassiamo leggermente, allora Giulio, questa è la regolazione, cioè che avevamo prima, con la resistenza da 100, ok, con la resistenza da 100, va bene, dimmi se devo sollevare leggermente il microfono oppure lasciarlo stare così. Per me, per il mio gusto personale, va benissimo così com'è. E ripeto, è migliore dell'altra, perché l'altra, come ti avevo detto poc'anzi, era diventata aggressiva, chiara, forte, quello che vuoi, però troppo aggressiva, cioè in poche parole, a lungo andare, stando molto tempo in frequenza, ascoltando quell'altra radio, poteva essere, poteva diventare fastidiosa a seconda dei punti di vista delle persone. Questa adesso, così come per me, è migliore, con quella d'accento, siamo tornati a quel discorso, siamo tornati, però mi devi dire tu una cosa, quando usi il 60, quale impedenza utilizzi tu, da 50 o da 500? Oh, io devo andare a mangiare, dai, vi lascio, dai, buon proseguimento, scusatemi, ho sentito un break in lontananza, se lo volete fare entrare io mi hanno chiamato a mangiare, ciao, buon proseguimento, ciao ciao. Allora Giovanni, attenzione. Avanti Giovanni. Entrare. Ciao Robè, ci sentiamo alle prossime, buon pranzo. Avanti Bracco. Cosa? No, io merito alla resistenza in cui state discutendo da mezz'ora circa. Scegliere una via di mezzo, non so, sui 200 ohm per esempio, probabilmente sia la migliore in assoluto, non so se Claudio ha di resistenza da 200 ohm, magari ce ne ho io quanto ne voglio, eventualmente che ti servano, ce le do. No, no Giova, ho trovato la via di mezzo, lascio stare così, da 100 perché mi sto ascoltando ed è molto bella anche, molto bella, grazie a Giulio, lascio stare così, ciao Robè, grazie, veramente grazie per questi passaggi, queste cose, questi accorgimenti che abbiamo fatto, è molto importante. No, lascio questa, scusa che mi è scattato il microfono, lascio questa l'accento, ok? La regolazione è così come hai detto tu Giulio, va bene, no? Per me è ottima, non bene, ottima, così per me è ottima. E allora così la lasciamo, oh, basta, basta che c'ho anche il dito, forse mantenere quella resistenza, mi sono bruciato anche l'unghia, ok, dai, la lascio stare così, Turner più 2 da tavolo con il TS440 della Kenwood, un ultimo accorgimento, va bene così Giulio, puntello? Sì, sì, chiudi tutto qua, così per me va benissimo, penso che vada bene anche per gli altri, per cui invece anche Bracco che ti sta ascoltando può darti conferma lui. Avanti Bracco. No, allora, ho detto che diciamo rispetto a quella del 470 questa è migliore, ma questo è ovvio, perché diciamo che quando ho messo la 470 ma la voce era un po' rimbombante, se vogliamo, per quanto riguarda l'udito che ho io, molte parole mi sfuggivano, mentre con questa è perfetta, diciamo. Ho fatto solo una proposta per quanto riguarda una via di mezzo, ma sarebbe, diciamo, anche bello sperimentare. Comunque, penso che l'unica sia lasciare questa da qua. Bene, anche io ho fatto il QRP, buon pranzo a tutti, arrivederci. Ok, ciao Giovanni Bracco, a stasera se coincide, dai, facciamo quattro chiacchiere. Sì, beh, abbiamo fatto un QSO basato oggi sulla tecnica elettronica, per cui siamo riusciti a risolvere un problemino che aveva col microfono appunto al primo impatto quando l'aveva piazzato. Va bene così, dai, io sono anche soddisfatto per te qua. Per me va benissimo così, per cui penso un po' se ti devo dire di no. Vabbè, ciao Bracco, buon pranzo anche a te. Avanti Claudio. Ciao Giova, allora buon pranzo, salutoni, cordialità, dai, ci riascoltiamo alle prossime. Sì, sì Giulio, ma no, non c'è un breve dubbio, mi sono ascoltato, va bene, la modulazione è abbastanza corretta, va bene, tenendo conto che è un microfono vintage anni 70 con una radio, va bene, vintage lo stesso, ma è un HF, quindi non sempre i microfoni vanno bene, però abbiamo trovato la cosa, insomma, da poter fare questa regolazione, da poter usare, niente di che, perché come ti ho detto, ho le connessioni del Kenwood, altrimenti altrimenti avrei fatto delle prove con i baracchini. Magari questo si adegua molto bene sicuramente al DAC, si adegua molto bene al Polmar, capito? Però adesso lo stiamo provando qua e lo proviamo qua, dai, va bene. Sì, sì, Giulio, me l'ho stampata quella cosa, quell'elenco che mi hai mandato, adesso con calma da quella cassettina, tramite quell'elenco, mi faccio una tabella e me la metto lì, in modo che so, me le provo tutte, che so appunto tutti quei colori che ci sono, equivalgono a 100 ohm, 500 ohm, 400 ohm, capito? Me le metto tutte bene in ordine, in modo che quando mi servono ce li ho, perché l'altra volta, come stavamo dicendo poc'anzi, ho messo il LED sul Polmar, ok? E chiaramente ci va una resistenza, perché sennò si brucia. L'ho presa da lì, capito? Gliel'ho messa per abbassare la tensione e ho visto che funziona perfettamente, è sempre acceso e va bene. Ok, qua. Sì, vabbè, quello non è un problema. Quando hai necessità di fare il calcolo per il LED, eccetera, basta fare un fischio e ti dico come si deve fare, che è una cosa abbastanza semplice. Siccome tu non sei una persona stupida, già lo impari facilmente, no? Non è un problema qua. Vabbè, comunque, quando c'è necessità, fai un fischio e sono sempre pronto. Ok, va bene, sono l'una e venti esatte, andiamo a pranzo, dai, ci sentiamo, sì, certo, scendendo, ma noi, proprio in questo momento è venuta mia figlia a chiamarmi per il pranzo. Ciao Claudio, sono contento che abbiamo risolto questa situazione, ciao Bracco, se sei ancora all'ascolto, ciao Roberto, se sei ancora all'ascolto, alle prossime, a stasera, per il prossimo QSO. Vai Claudio, ascolto finale e dopodiché chiudo per pranzo. Grazie Giulio, grazie, gentilissimo. Beh certo, non mancherà l'occasione, così mi dai anche quello e mi scrivo tutto e non ho problemi. E infatti nella mia ignoranza cercherò di capire subito al volo. Ciao, buon pranzo, buon tutto. Ok, grazie, grazie, a stasera. Ok, ciao di nuovo.